volete. Da me. È la stanza vuota. E che è santissima. Vai qui, da noi, da noi. Santissima, la Madonna del Signore e dei dipersi alla stazione. Misericordia Santissima!